Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Scrivo a proposito del bambino di 9 mesi morto dopo essere stato azzannato da un cane. I cani di un certo peso sono tutti potenzialmente pericolosi, come lo sono le auto veloci o le ipermoto, le armi, le tangenziali. Allora, che facciamo? Andiamo tutti in 500? Ridurremmo sicuramente gli incidenti, gli ingorghi e l'inquinamento. Io, naturalmente, ho un cane. Li ho sempre avuti. Li amo e ho sempre avuto razze potenzialmente pericolose. Come siamo pericolosi noi uomini che tutti i giorni uccidiamo nelle guerre, negli attentati, sulle strade, ubriachi, negli stadi, nelle case. Uccidiamo figli, mogli e amanti. Sarebbe stato sufficiente erigere un'adeguata recinzione e fare in modo che il mastino non entrasse mai in contatto con un bambino piccolo. Io odio profondamente i possessori di cani di un certo tipo, però mi rendo conto che non posso sopprimere tutte le persone che conosco e che non sono all'altezza dei loro cani. Ma i veri e unici responsabili sono sempre le persone. Gianmario. Da cittadino del mondo mi preoccupa molto l'esito del referendum pro Chavez in Venezuela. Speravo che l'era dei furbacchioni populisti potesse finire con Fidel Castro, che in tanti anni di dittatura è riuscito a portare eguaglianza tra i suoi concittadini, livellandoli tutti al grado di pezzenti. Se non altro Pinochet se n'è andato dopo un voto democratico, lasciando i conti del Cile molto migliori di quelli degli altri paesi sudamericani. Il signor Chavez non ha ancora dimostrato la sua estraneità ad alcuni fatti incresciosi che colpiscono anche la comunità ebraica venezuelana, pur sentendosi forte del petrolio del sottosuolo, di cui si è reso di fatto proprietario incontrastato. Michele, da Bergamo. Dunque, secondo alcuni, sinistra, cattocomunisti, radical chic, eccetera, la soluzione dovrebbe essere più soldi alle forze dell'ordine. Quindi più controlli, quindi più prevenzione, integrazione, tolleranza. Aggiungo qualche punto esclamativo e interrogativo. Mi domando, ma se le forze dell'ordine arrestano i delinquenti che grazie a qualche giudice tollerante e solidale, e soprattutto di sinistra, dopo qualche giorno sono di nuovo a spasso, a cosa servono più controlli e prevenzione? Ci dobbiamo mettere in testa che prima di tutto viene il rispetto delle regole e questo si ottiene solo facendo rispettare la legalità, perché senza il rispetto della legalità non possono esserci democrazia, libertà, tolleranza e solidarietà. Le donne non possono più uscire da sole e nemmeno accompagnate, si rischierebbe in due. Per strada è pieno di ubriachi e drogati che mietono vittime, fregandosene altamente di quello che tanto a loro non succede. E via via con spacciatori, sfruttatori, camorristi, mafiosi ed ex BR. Ma le leggi speciali? Non si usano più? Servivano solo quando le vittime erano magistrati e politici? È tutto molto pericoloso perché la gente, coloro che vivono e lavorano onestamente, è stufa. Vi chiedo, meglio un brutto processo oggi che un bel funerale domani? Mario, da Guidonia, Roma. Di fronte ai sempre più frequenti episodi di criminalità, indigena e straniera, la gente invoca più severità, meno patteggiamenti della pena e più certezza che la condanna venga scontata interamente. Povera gente, è il caso di dirlo. Lo chiede proprio a quei politici che sono gli stessi che hanno ostacolato in tutti i modi la giusta punizione dei colpevoli, essenzialmente per proteggere se stessi, non potendo fare una giustizia a parte per i politici. E adesso le stesse forze politiche danno in pasto ai cittadini i biscottini di interventismo, invece di legiferare in senso più restrittivo. Poveri noi, Edoardo. Se il nostro paese è il ventre molle delle condanne, ed è più ricco della Romania, è abbastanza ovvio che un romeno venga a delinquere in Italia, se non altro per una speranza matematica più favorevole, se la vogliamo mettere in statistica. E questo vale per tutti gli altri delinquenti, tunisini, marocchini, eccetera. Questa gente deve scontare le condanne nei paesi d'origine, senza considerare che gli stranieri in Italia, clandestini o regolari, sono ormai troppi. Paolo. Caro direttore, ho diversi amici stranieri e fra di essi ce n'è uno di origine romena che ha vissuto l'esperienza del carcere sia nel suo paese che in Francia. Si tratta di un ragazzo che ora faticosamente si mantiene lavorando, con tutte le difficoltà del vivere in un paese straniero con pochi amici e parenti cui fare riferimento, e che i casi della vita hanno portato a violare la legge, con piccoli furti che poi ha anche pagato cari. Non certo come quelle belve che fanno della delinquenza la propria ragion d'essere, e che semplicemente si rifiutano di lavorare o di conquistarsi una donna, perché convinti di avere diritto di avere tutti i soldi e le donne che vogliono, calpestando diritti e volontà altrui. Bene, sono rimasto scioccato dal sapere da questo ragazzo che, in confronto al carcere del suo paese, le carceri francesi e, per sentito, da altri, quelle italiane, al confronto sono Lilton. Parole sue: se dovessi mai tornare in carcere, sono disposto a farmi 5 anni qui in Italia, piuttosto che uno solo al mio paese. Se da un lato sono contento che il nostro paese sia più civile nel trattamento dei condannati che hanno violato la legge, mi rendo anche conto che la paura della pena, quando anche fosse certa, e non lo è, non c'è. E anzi, per un disperato potrebbe perfino essere desiderabile passare un po' di tempo in condizioni igienico-sanitarie controllate, con cibo gratis tutti i giorni e senza morire di freddo in una roulotte o sotto un cartone. Sarebbe necessario concordare che le pene cui dovessero essere condannati gli stranieri vengano scontate nel loro paese, tranne quei casi in cui col rimpatrio rischiassero la vita o altre pene disumane. Otterremmo un alleggerimento dei costi sociali, un minore affollamento delle nostre carceri e forse qualche scrupolo in più da parte di questi impuniti, qualunque cosa possa accadere loro. Fabio, Milano. Una soluzione per combattere i fenomeni di clandestinità e malvivenza è quella di limitare fortemente l'uso del denaro contante, motore di ogni attività illegale. Nessuno mai lo dice, ma risolverebbe in automatico una montagna di problemi. Da quello delle rapine col mitra, allo spaccio, alla prostituzione, alle mazzette, eccetera. Giorgio. Sono un liberale, liberista e libertario convinto. Elenco qui di seguito le mie soluzioni libertarie per la sicurezza. Sono soluzioni a costo zero. Liberalizziamo i taxi per avere prezzi più bassi e più vetture durante la notte e fare in modo che le donne non siano sole. Aboliamo il monopolio del trasporto pubblico per le stesse ragioni. Detassiamo gli affitti per avere prezzi più bassi e più offerta in modo che i giovani non siano costretti al sesso in auto. Aboliamo il reato di oltraggio a pubblico pudore per evitare che si cerchino angoli troppo riservati. Privatizziamo i parchi, ovviamente a fronte di sconto sulle tasse che paghiamo, per avere parchi chiusi la notte e sicurezza privata nei parchi. Liberalizziamo il porto d'armi come deterrente. Liberalizziamo gli orari dei negozi per averli aperti la notte in modo che diano illuminazione e un po' di vita. Privatizziamo alcune aree pubbliche, nei centri commerciali privati o nei parchi di divertimento. Non si sente mai parlare di stupri. Perché nessuno pensa mai a soluzioni liberali? Meno Stato, meno tasse. Marcello. Caro direttore, assisto con stupore al dibattito tra chi è favorevole o contrario all'idea di rispondere con il fuoco ai rapinatori. Io credo che avere un'arma in casa sia uno sbaglio a priori, perché al momento del bisogno, quello davanti o quello dietro alla canna rischiano di farsi del male. Senza contare le disgrazie fra disattenzioni, giochi, eccetera. Ma detto sinceramente, se l'andazzo continuerà in questo modo, penso che i furti e le rapine si moltiplicheranno e quelli che vogliono sparare non avranno più la scusa del ladro rom o del rapinatore incallito, ma si troveranno davanti padri di famiglia che si giocano l'ultima carta. Allora mi chiedo, è giusto armare le persone? Non sarebbe meglio invece sfamarle? Il governo in questo momento non sta facendo nulla per disarmare le persone e ancora meno per non farle arrivare all'irreversibile. Rudy. Carissimo direttore, io vedo che in questa povera Italia si può fare tutto il male che si vuole senza rendersi colpevole di alcunché. Il tutto è sempre fatto secondo legge. Anche gli strepitosi guadagni di qualcuno sono sempre giustificati e se qualcuno viene additato, risponde che ci sono quelli e quegli altri che guadagnano ancora di più di lui e hanno ragione. Da nessuno ho sentito porre l'attenzione sul fatto che i loro compensi sono 1000 volte e anche più quelli di un lavoratore specializzato. Il bello è che non c'è nessuno che sia in grado o che abbia voglia di porre fine a questa situazione, per cui a noi poveri cristi non resta che attendere di posare tutti il sedere per terra e riposare in quella posizione. Nessuna legge e nessuna costituzione prevede il benché minimo limite all'ingordigia umana. O non è così? Giustino, Pescara. Non è Bonolis che guadagna troppo. È la televisione che non deve essere pubblica. L'idea che ci debba essere una TV di Stato perché lo Stato ha il dovere di informare è semplicemente ottocentesca o degna del regime dello Stato libero di Bananas. Andrea Arese. Caro direttore, finora l'uomo ha sempre pensato esclusivamente al proprio ego. Non dobbiamo dare colpa a nessuno, ma solo a noi stessi. Tutti noi, nelle piccole azioni, siamo stati limitati dal nostro ego e non dobbiamo meravigliarci di questa realtà. Abbiamo creato l'economia come un'energia che usciva da una mano ed entrava raddoppiata nell'altra mano. E così abbiamo creato lo squilibrio. Gli antichi lo hanno sempre saputo. L'oro che si trova nelle viscere della terra non è altro che energia condensata del sole. Sì, il sole che ci dona la sua vita in continuazione e ogni giorno ama le sue creature. Il sole pensa solo a donare il suo calore e non vuole ricevere nulla in cambio. Questa semplice legge gli uomini non l'hanno mai compresa. È la stessa legge che regge la natura in armonia. Forse adesso i tempi sono maturi. La nostra economia deve basarsi sull'economia del sole. Donare senza pensare di ricevere. Non è necessario fare grandi cose. Si può iniziare dai piccoli gesti quotidiani, un po' alla volta. Non importa quanto tempo ci vorrà, l'importante è avere l'impronta nella nostra coscienza. Credo che non abbiamo altre scelte se vogliamo creare un nuovo mondo, dove regni un'economia che generi ricchezza, pace e armonia per tutti. Lo ripeto, l'esempio lo abbiamo davanti agli occhi ogni giorno. Il sole. Caro direttore, mi piacerebbe che questo piccolo e umile messaggio si infiltrasse timidamente in mezzo ai tanti numeri, alle percentuali e ai dibattiti. Auguri per tutti noi, per un nuovo mondo. Antonio, da Vicenza. Caro Antonio, il suo messaggio è certamente affascinante. Lei propone l'economia del sole per dare una soluzione ai grandi problemi del nostro tempo. Il sole è indubbiamente l'elemento essenziale della vita. La luce, il calore, l'energia, le stagioni, tutto dipende dal nostro grande e per fortuna inesauribile compagno di viaggio quotidiano. Inesauribile per noi e per i nostri figli, per i nostri nipoti, per centinaia di generazioni. Non altrettanto inesauribili sono le risorse di questa nostra terra, il petrolio, i minerali, le terre coltivabili sono abbondanti, ma limitati. Dobbiamo usare sempre meglio le risorse che il sole ci ha dato e sfruttare meglio le risorse che proprio grazie al sole possiamo considerare rinnovabili. Quanto a parlare di un'economia del sole, certo, può essere fortemente simbolico, anche perché il sole è il simbolo della luce, della chiarezza, del calore, in fondo è il simbolo della vita. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.